In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: Allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Gesù ci dà questo insegnamento oggi. Dice che per un ricco è molto difficile entrare nel regno dei cieli. E non solo pronuncia questa frase, ma dice anche espressamente: Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Quindi non solo Gesù l'afferma, ma lo ripete che è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Dice: È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Sappiamo che in Gerusalemme c'era una porta abbastanza stretta per la quale i cammelli passavano, ma molto a fatica. Tuttavia, questa frase di Gesù non ci deve spaventare. Perché? Perché alla fine è vero che oggettivamente è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli, ma tutto è possibile a Dio. Quindi se questo ricco si affida al Signore, è sicuramente quella la chiave per poter fare anche ciò che sembra quasi impossibile fare da soli. E allora vediamo un po' perché per un ricco è difficile entrare nel regno dei cieli. Perché? E alle volte abbiamo un modo di interpretare la ricchezza in maniera indebita, cioè tutte le ricchezze, non solo quelle materiali, ma sicuramente anche quelle immateriali, il Signore ce le ha date non perché ne godessimo in prima persona e basta, ma perché ne godessimo, le sviluppassimo e le mettessimo a disposizione di tutti. Quindi tutto quello che noi abbiamo ricevuto, tutti i beni che noi abbiamo, non sono soltanto per noi. Quindi all'inizio Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell'umanità. E l'abbiamo visto, lo vediamo negli inizi nella Bibbia, no? I beni della creazione però sono destinati a tutto il genere umano. E quindi il Catechismo insegna che tutto quello che il Signore ha dato, tutti i beni che il Signore ci dà, sono destinati a tutta l'umanità. Andate a vedere nel Catechismo, nella parte in cui si parla dei 10 comandamenti, nella sezione seconda dove ci sono i 10 comandamenti, precisamente il settimo comandamento, non rubare, c'è proprio il principio esplicito che la Chiesa ribadisce sempre della destinazione universale dei beni, cioè tutti i beni non ci vengono dati soltanto per noi. Certo, c'è il diritto alla proprietà privata, perché la proprietà privata serve per garantire meglio la gestione dei beni e per farli fruttificare meglio, ma mai per un'appropriazione esclusiva e quindi per escludere gli altri dal usufruire di questi beni. E quindi bisogna cercare che cosa ci insegna oggi. Questa parola, che cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che tutti i beni, anche sia che siano essi materiali, siano invece spirituali, come il dono dell'intelligenza, il dono di saper scrivere, il dono di saper ballare, il dono di saper cantare, non sono destinati soltanto a noi, ma sono destinati a tutti e per poter amministrare bene questi doni dobbiamo pregare, perché niente è impossibile a Dio. Quindi cerchiamo oggi di ricordarci questo principio e che quindi la proprietà di un bene, di qualunque bene, non è soltanto per noi, ma fa di noi degli amministratori della provvidenza che dobbiamo far fruttificare qualunque dono abbiamo ricevuto per il bene degli altri. E il Catechismo dice anche che coloro che possiedono beni di uso e di consumo devono usarne con moderazione, riservando la parte migliore all'ospite, al malato e al povero. Pensate addirittura a questo. Quindi affidiamoci al Signore per poter essere dei bravi amministratori. Buona giornata.